quarantena, cioè in questo momento problemi non me ne sto dando. Adesso dobbiamo andare a casa di Antonello, dobbiamo addrizzare quarantena che il vento gli era capottata. E qua quanto lei? Non è che te l'ha capottata? Ieri notte. Qua non stanno andando vento però. Gli era capottata. Dunque, dobbiamo salire su e mettergliela a posto. E allora non era bene ancora sotto lei? C'era solo un pezzo di filiferro che le abbiamo legata così, capito? E dunque, adesso vediamo un po' di sistemarla, dai. Che parole, davanti chi chiama? Papa, ti ascolto, Santiago 8, Radio 5, bello bene. Non so come tu ascolti a me in quelle coordinate di Provaghe. A momenti ti ascolto, a momenti sparisci, Non so se ascolti a Coso, a Pomponio. Vai a Antonepere, l'amico di Provaghe. E attenzione, l'amico di Provaghe, buongiorno, cordialità, avanti, se mi ascolti. Lo sentiamo. Non mi sembra la voce di Spalviero, comunque. E vorrei più bene comunque. Santiago 9 super 5. Non so come ascolti a me lì in quelle coordinate. No, Radio 5. Sta andando molto bene. Io e Claudio, se ascolti il doppio ro, cambio. Dove sei Claudio? Buongiorno Torino, buongiorno a tutti, dai, dove sei? Voglia, dai si forte, c'è un bip avanti che vuole entrare. attacco PL, pensavo fosse un'antenna VHF, invece un'antenna però 27 che ho trovato in garage. Esci cosa, esci bene, non preoccuparti, se no per qua mi ha quadrato. Sto facendo il tornante di scala di ciocca da sotto, capito? Sono già a metà, fra un po' esco. La scala di ciocca! Sì, d'accordo, ti conviene fare scala di ciocca salendo, è prima. Ehi, scala di ciocca sto facendo, sono già quasi alla fine, capito? Sì, d'accordo, va bene. Ah, che un baracchino l'hai saputo a Dolì, 30 anni, o 40 anni, e te dicevo, la KB23, la faglietta KB23 col microfono normale. Io ti ascolto, adesso sei calato di un'attacca, sono chiaro, auto, ti ascolto, poi la radio è sempre la sua, sempre la stessa. Sì, andrà bene, dai. Sacca bene, per essere con cosa lo stai dicendo tu, stai andando troppo bene. Chiami finito scala di ciocca, sto per invocare Quadratos. Vai Antonio. Attento motopompa. Dimmi. E hai qua, traversa Guido Sirini. Sto per invocare il quadro. D'accordo, d'accordo. Dai un po' la giardonia, le aree sciocaffè a Tattari. Sono tutto gonfio. Anche io. Buttala fuori l'aria. Va bene, va bene, gliela butto fuori. Dove siete che non vi vedo? Alla fine del quadrato siamo qui. Alla fine del quadrato. Aspetta. Vittorio.